in primo piano. In questo giovedì 7 aprile le notizie che conquistano le prime pagine dei giornali sono in pratica due: la vicenda del terremoto nel salotto più importante della Finanza Generale con le dimissioni di Geronzi e l'ecatombe, questa è la parola che per esempio mette in prima pagina il Corriere, degli immigrati al largo di Lampedusa. Geronzi lascia la presidenza generale, così titola il Sole 24 Ore, mentre Repubblica Generali, la caduta di Geronzi. Sull'immigrazione invece per il Corriere, ecatombe sulla rotta per l'Italia. Si rovescia barcone carico di migranti, più di 250 morti, molti bambini. Strage al largo di Lampedusa per La Stampa. Libero, chi annega i clandestini? È la colpa del governo tunisino per Libero. Il Fatto Quotidiano, Lampedusa, soluzione finale. Strage in mare, tanti bambini, così titola il Messaggero, mentre Avvenire, il mare se li prende e noi? Il Manifesto invece mette una grande vignetta di Vauro che sul Fora di Ball di Bossiana Memoria mette in disegno bambini annegati che affondano in mare. Per l'Unità, nipote di nessuno, barcone sinabissa, morti, centinaia di dispersi, c'è la foto di un bambino sopravvissuto. L'apertura del giornale invece sulla vicenda giudiziaria del Premier, sveltina giudiziaria, questo è il titolo il giorno dell'apertura ieri del processo Ruby. Le due segnalazioni da cui voglio partire è la prima dal Corriere della Sera, pagina 21, Sergio Rizzo. Visto che l'Italia è un paese per vecchi e si sa, soprattutto nei posti di potere, il paese che non vuole amministratori giovani. Su oltre 8.000 sindaci, solo 70 hanno meno di 30 anni e 500 meno di 35. Sergio Rizzo racconta la storia di Nicola Chionetti, da 2 anni sindaco di Dogliani, classe 1981, non ancora trentenne, ma come lui ce ne sono appena 70 su 8.094 comuni, lo 0,86%, e tutti nei piccoli centri. Questa è l'Italia, racconta Sergio Rizzo, paese con una classe dirigente anziana, incapace, se non con molte difficoltà, di rinnovarsi, nel quale i 2/3 degli under 35, come starebbe a dimostrare un sondaggio dell'ISPO per il Ministero della Gioventù, mostra una sfiducia pressoché assoluta nelle istituzioni. E allora, domani tra l'altro si apre il convegno dell'ANCI Giovani, cioè i comuni, l'associazione dei comuni l'ANCI Giovane, cioè la consulta nazionale degli amministratori locali under 35, si parlerà proprio di questo. Ma insomma a tutti i livelli, i deputati eletti quando non erano ancora 35 anni sono il 2%, i senatori con meno di 50 anni sono il 19% dell'assemblea. Insomma, un paese, come si dice molto spesso, per vecchi. Qui una certificazione anche a livello amministrativo. La seconda notizia la troviamo sia sulla Stampa sia sul Corriere, riguarda tutti noi italiani. Attenzione, perché in Inghilterra hanno fatto uno studio su 2000 casi e hanno studiato le famiglie e hanno certificato con tanto di firma in calce quale sia la famiglia perfetta. Oh, queste cose qua quando io le sento mi viene un po' di nervosismo, ma sta di fatto che è stato certificato. E allora la famiglia perfetta è quella con 2 figlie, madre, padre ovviamente, e 2 figlie femmine. Mentre la famiglia col record di litigi è quella con madre, padre e 4 figlie tutte femmine. Questo è lo studio inglese, insomma, tra l'altro il Corriere mette ovviamente la foto di Barack Obama con la moglie, visto che hanno 2 figlie femmine, quella è la famiglia perfetta, e c'è anche il decalogo del perché quella è la famiglia perfetta. Perché? I 10 buoni motivi: tendono a essere meno rumorose e disordinate dei maschi, possono essere un valido aiuto in tutte le faccende domestiche, 2, vabbè, questa proprio. 3. Garantiscono un basso tasso di conflittualità sia fisica sia verbale. 4. Sono in genere abbastanza ragionevoli. 5. Giocano e trascorrono molto tempo insieme. 6. Raramente si dimostrano indifferenti l'una all'altra. 7. Hanno una spiccata propensione a fidarsi della madre e del padre. 8 sono molto educate, 9 raramente si coalizzano contro i genitori, 10 capiscono il valore dei sentimenti. Eccola qui, la famiglia perfetta, madre, padre e 2 figlie. Siete sollevati? Se avete 2 figlie, siete all'ascolto? Bene, buon per voi. Voglio partire dalla tragedia vera e propria, l'ecatombe, titolo del Corriere della Sera, che è avvenuta al largo di Lampedusa. Beh, troverete reso conto in tutte le prime pagine dei giornali di quelle che sono storie che anche solo a leggere mettono, insomma, non di buon umore, devo dire, di mattina. Anche i racconti di chi ha cercato di salvare questo barcone che si è rovesciato con 300 migranti, 250 paiono le vittime, ci sono anche molti bambini. Per esempio Felice Cavallaro racconta di come le due motovedette CP301 e 302 giunte quando hanno individuato il bersaglio un quarto d'ora dopo le 4 del mattino sono arrivate. E cosa è successo? La ressa per gli aiuti probabilmente, il barcone si è sbilanciato alla vista della motovedetta, un barcone stracolmo. E allora racconta Cavallaro, Domenico Sorrenti e Maurizio Scozzari ai comandi della 301 hanno visto volare centinaia di persone in acqua, grappoli, uomini, donne, bambine, un inferno, urlavano «No, calma, seduti!» urlavano invano anche Pietro Alaimo, Roberto Boatta dalla 302, grida perdute in un'alba mai nata. Per chi annaspava disperato, trascinato dal mare furioso, sparendo giù per riemergere pochi minuti dopo senza vita, il corpo Bocconi. Come è accaduto con tanti bambini, anche con il bebè di Abby, un libico, papà 19 anni, distrutto perché non ce l'ha fatta salvare il suo fagotto stretto tra le mani, poi con un braccio per poter nuotare, nell'impossibilità di fargli tenere il capo su l'acqua inghiottita, vinto dallo schiaffo di un'onda più forte. Insomma, sono racconti davvero di tragedie, storie di chi, racconta il Corriere, scappava dal Sudan, chi dal Chad, chi dalla Libia, chi dall'Eritrea, chi dalla Somalia, che ha cercato che vedeva nell'approdo all'Italia un approdo all'Europa, un approdo a una vita migliore, e che invece è morto in questa ecatombe vera e propria. Ora ci sono anche un po' le varie accuse, come le interpretano i giornali, insomma, io vabbè, le devo registrare, anche se è un po' puntare il dito un po' stucchevole. Le avete uccisi voi, ecco il fora dai ball. Questo per il Fatto Quotidiano, sparati come proiettili dall'ex amico Gheddafi. Mentre Libero la vede così, chi annega i clandestini è un'altra strage da imputare al governo tunisino che non fa nulla per fermare il traffico di esseri umani. Mentre per il Giornale annegano in 300 sotto gli occhi di Malta, responsabile sarebbe anche Malta, che non è intervenuta e non è la prima volta, fa notare il Giornale. Sta di fatto che, ripeto, trovate molto di queste storie drammatiche, anche di racconti di chi ha cercato di salvarli, ma ha potuto assistere impotente al rovesciamento di questo barcone. Tra l'altro, sotto l'aspetto invece più di rapporti bilaterali, che cosa sta succedendo per tutti gli immigrati? Se ne è perso le tracce, almeno sui giornali, se ne parla un po' meno. Tutti gli immigrati in Italia. Pare che questi permessi a tempo siano pronti. Oggi dovrebbe essere firmato il decreto, cioè il Consiglio dei Ministri, il decreto per dare i permessi a tempo validi, 6 mesi per l'Italia e 3 mesi per il resto dell'Europa, per permettere a tutte le persone che sono già in Italia di poter circolare nell'area Schengen. Anche se la Francia è dubbiosa e anche l'Unione Europea è dubbiosa, cioè l'Unione Europea dice attenzione, non è che voi date questi permessi a tempo per andare in giro e automaticamente vuol dire che queste persone possono andare in giro per l'Europa. Secondo l'Italia probabilmente è così, secondo l'Unione Europea non è proprio così, anche la Francia ha dei dubbi. Insomma, la mia sensazione è che si firmeranno queste cose, ma questi permessi per circolare, ma che per esempio la Francia non li accetterà, non li riconoscerà automaticamente e quindi respingerà alle frontiere le persone. Mentre il Corriere, con Fiorenza Sarzanini a pagina 9, racconta i dettagli dell'intesa Italia-Tunisia. Sapete che Maroni è tornato dopo l'incontro con Berlusconi, è tornato in Tunisia per perfezionare questo accordo. Ecco l'intesa: 2 giorni di tempo per consegnare 28 fuoristrada giapponesi, 14 motori Caterpillar per motovedette, 10 giorni per dare 20 postazioni PC fisse con tastiera in arabo, 20 postazioni PC analogici fisse, 20 metal detector portatili destinate alla circolazione transfrontaliera. Queste le condizioni immediate poste dall'autorità tunisina all'Italia e contenute nel processo verbale firmato 2 giorni fa dai ministri dell'interno Maroni e Hessid, ministro tunisino. È il testo in 5 punti che sarà illustrato questa mattina in Parlamento e viene anticipato dal Corriere della Sera. Dunque, dall'Italia fuori strada e computer per avere rimpatri e pattugliamenti. Ecco l'intesa che il Corriere svela in anteprima. Tra l'altro, sul fronte dell'immigrazione voglio invece citare quello che l'Unità cita a pagina 7, vale a dire una proposta di legge che proviene dal sindaco e anche onorevole della Lega Gianluca Buonanno, uno che ha fatto le ordinanze contro il burka, uno che fa sempre anche proposte a volte un po' strampalate. Ebbene, Gianluca Buonanno che cosa ha proposto? Ha proposto di tassare dell'1% le rimesse degli stranieri in Italia. Le rimesse, vale a dire, sono i trasferimenti all'estero di denaro effettuati da tutti gli stranieri tramite le banche, le agenzie di money transfer. Sono soldi, tantissimi soldi, perché le rimesse degli stranieri nei dati del 2009 parlano di 6,8 miliardi di euro da parte degli extracomunitari residenti in Italia che spediscono i soldi frutto del loro lavoro ai propri familiari in patria. Ebbene, questa proposta di legge propone di tassare dell'1%, non si capisce in base a che cosa, queste rimesse. Secondo questa tassazione si otterrebbero 70 milioni di euro l'anno in cassa allo Stato. Però, ripeto, non si capisce la base sul perché dovremmo tassare l'1% i soldi guadagnati legittimamente dagli stranieri che vengono spediti in patria. Ieri è successo questo alla Camera. Si è parlato di processo breve, processo lungo. Se non capite cos'è il processo breve e se non capite cos'è il processo lungo, potete leggere, vabbè, Sole 24 Ore, pagina 20, ve lo spiega. Ma comunque consolatevi, perché siete in straordinaria compagnia, secondo me, in Italia. Comunque adesso è spuntato anche il processo lungo, cioè una proposta di legge che permette ai difensori di presentare liste infinite dei testimoni, anche superflui, che il giudice sarà obbligato a sentire, pena la nullità di tutto il procedimento. Cioè, messa così vuol dire dar la possibilità di fare processi infiniti, tanto poi c'è la prescrizione. Così l'ho interpretata così. Comunque, che cosa è successo? C'è uno straordinario pezzo di Tommaso Labate in prima pagina del Riformista, perché sul dibattito sul processo breve gli animi si sono un po' surriscaldati, no? C'è stata una giornata di quiete l'altro giorno in Parlamento, ma adesso gli animi sono tornati un po' a surriscaldarsi, perché l'opposizione ha fatto ostruzionismo. Ha fatto ostruzionismo per cercare di dilatare i tempi. E come ha fatto ostruzionismo? Beh, intanto l'ha scoperto in questo articolo di Tommaso Labate che trovate sul Riformista: tra cipolla e culatello torna l'ostruzionismo. È stato tutto scoperto dall'onorevole Giachetti, secondo che ha scovato l'articolo 32,3 del regolamento della Camera, uno strumento che ciascun deputato può usare per precisare meglio il proprio pensiero del giorno prima. Scoperta fatta, tutti i deputati hanno deciso che dovevano avvalersi di quest'articolo per precisare, vorrei precisare meglio, Presidente, quello che ho detto il giorno prima. E lì è partita una bagarre incredibile, perché su che cosa i deputati volevano precisare meglio quello detto il giorno prima? Beh, praticamente hanno parlato tutti di, come se fosse la Camera diventata uno slow food generale, di prodotti tipici locali. Della cipolla rossa di Breme si sgola l'onorevole Zucchi Angelo del PD. Se ne producono 600 quintali e l'aula di Montecitorio trattiene il fiato, racconta Tommaso Labate. Gennaro Malgeri del PDL urla: ma l'abbiamo già sentito, a medio la boccetta del PDL. Ma che fa? Si mette a leggere di nuovo? Ma il democratico Zucchi Pavese di Siziano, anni 56, non si cura di loro e legge il lardo di Colonnata, uno dei nostri prodotti DOP più ambiti che tutto il mondo ci invidia, e la cipolla di Breme, la coltivano 6 agricoltori, una tradizione dal 906 d.C. E poi dopo tocca ad altri, no? Per esempio, Marina Sereni del PD, anch'io voglio avvalermi dell'articolo 32, voglio chiarire il mio pensiero. E allora parlo del vino sagrantino di Montefalco, il tartufo nero di Norcia, lo zafferano di Cascia, i prosciutti tipici di Preci. E poi, insomma, a chi tocca? Beh, a quel punto iniziano gli insulti. Basta, andiamo avanti. Zucchi cita la comunità ebraica di Mortara, di Pavia, che 600 anni addietro chiese e ottenne di inventare un salame che non venisse dal maiale. Così nacque il salame d'oca. Onorevole Zucchi, dice il presidente Mario Lupi, la ringrazio per la spiegazione dotta e erudita sul salame d'oca. Ho tutto andato in scena alla Camera, non mi invento niente. Poi è toccato al marchigiano Massimo Vannucci del PD, che lamenta l'assenza di un dettaglio dal resoconto stenografico del giorno prima. E qui è spettacolare. Dice: quando Ciccanti dell'UDC parlava del prosciutto di Carpegna, dai banchi della Lega è arrivato un grido: mettici anche il culatello! E Ciccanti ha risposto: sì, di tua sorella, probabilmente. Questo nel verbale non c'è, denuncia incredibile, con incredibile sdegno, il PD Vannucci. E Lupi dalla presidenza: si vede che la sorella non aveva comprato il culatello. E Vannucci: eh no, altrimenti non si capisce, lo faccio per l'onorevole Ciccanti. Io non so se la sorella del collega producesse culatello e quindi se l'onorevole Ciccanti si riferisse a questo. A che cosa si riferiva parlando del culatello della sorella? Chi lo sa. Tutto questo è andato in scena alla Camera dei Deputati. E il culatello di tua sorella spunta l'ostruzionismo slow food. Questo è l'articolo che per me vince per almeno da qui a 3 mesi di Tommaso Labate sul Riformista. La Camera ha anche deciso con la giunta per l'autorizzazione a procedere, è un tema molto dibattuto, un po' più serio direi, o meglio il Senato, non la Camera, che il senatore tedesco, sul quale pende una richiesta d'arresto da parte della procura, una procura di Bari, può essere arrestato. Tedesco, bocciato il no all'arresto, il PD è diviso ma vota compatto. E il senatore del Partito Democratico sarà nostro ospite alle 8:20 nell'intervista e tra l'altro ora si dovrà pronunciare ovviamente la Camera. Mentre che ti ha combinato, torniamo sempre un po' meno seri, il nuovo, cosa ha combinato di nuovo? Scilipoti copia il manifesto fascista. Ha dovuto scrivere il manifesto dei responsabili, ma è stato scoperto, lo ha scoperto un blogger, Antonio Scalari, 30 anni, biologo mantovano, che ha scoperto che praticamente gran parte del manifesto dei responsabili è copiato dal manifesto degli intellettuali fascisti di Giovanni Gentile. Punti che sono praticamente fotocopia. E Scilipoti, intervistato dal Corriere da Monica Guerzoni, dice: vabbè, io non ho copiato niente. E questa è la frase più bella. Può anche darsi che qualcuno in precedenza abbia parlato con lo stesso linguaggio che uso io. Vabbè, questa davvero stravince. C'è Massimo Gramellini che vi dedica il suo buongiorno, il buongiorno dedicato a Scilipoti, di Massimo Gramellini, in prima pagina della Stampa. Scilipoti e Scilincolla, il programma del responsabile è copiato di sana pianta dal manifesto degli intellettuali fascisti del 25. Incredibile, non tanto per il riferimento ai fascisti, ma agli intellettuali. Uno non fatica a immaginarsi la scena: Scilipoti alla scrivania, matita in bocca, gli occhi al soffitto, responsabilità nazionale saperlo. All'improvviso la luce, inseriamo una parola chiave su internet, come uno studente in cerca di ispirazione. Manifesto, no che orrore! Sullo schermo compare il barbone di Marx. Un momento, più in basso affiora il filosofo Gentile col manifesto degli intellettuali fascisti. Leggiamo un po'. E copia, ovviamente. E tra una scopiazzata e un'incollata si approda al gran finale. Gentile aveva scritto: la patria è concezione austera della vita. Scilipoti lo personalizza con la sua griff: responsabilità è concezione austera della vita. Ci piace sperare che a quel punto gli sia almeno venuto da ridere. Allora, l'altra notizia che trovate sviluppata sulle prime pagine del giornale, notizia importante, è appunto il cambiamento, il terremoto che è avvenuto anche un po' a sorpresa, nonostante ci fossero tensioni all'interno di Generali, con Geronzi, il presidente generale Cesare Geronzi, che si è dimesso a meno di un anno dal suo arrivo al vertice della compagnia triestina. Perché? Perché lo sappiamo, generale è il salotto della finanza che ridisegna poi i poteri della finanza che conta in Italia, il potere che conta in Italia. Geronzi cede ai soci, lascia le generali. Troverete su tutti i giornali tantissimi retroscena di come ora si riassesteranno tutti i poteri e contropoteri della finanza in Italia. L'avventura di Geronzi è durata meno di un anno, appunto. Tra l'altro, io tra i tantissimi commenti voglio segnalare l'editoriale del direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano: il tappo saltato, il mercato, le risposte da dare. Scrive Napoletano: è saltato il tappo, in prima pagina sul Sole. I mercati plaudono. Cesare Geronzi non ha evidentemente i cromosomi giusti per guidare generali, uno dei pezzi più pregiati della finanza italiana, e come l'impiegato Kafka ha visto cadere il suo castello in meno di un anno. Nel DNA del banchiere romano ci sono il credito, le operazioni di sistema presunte o reali, non ci sono le polizze. C'è un'idea del mondo degli affari e delle relazioni che, alla prova dei fatti, si è rivelata incompatibile con azionisti di peso della compagnia ed è stata bocciata dalla comunità degli investitori. Tutto ciò avviene dopo mesi di scontri, veleni, dentro e fuori il consiglio di amministrazione delle generali, che hanno lacerato l'immagine della compagnia, inciso pesantemente sul blasone e sulle capacità reddituali del player più internazionalizzato del paese. Uno spettacolo che non avremmo voluto vedere, non dovrà mai più ripetersi, perché le generali sono un patrimonio nazionale e meritano rispetto. Ovviamente questo il direttore del Sole. Ci sono anche tutti i retroscene di quelli che sono stati i motivi che hanno portato a questa grande tensione. Beh, sono stati i grandi soci di Mediobanca. Mediobanca è il socio di maggioranza, i generali, a spingere. Soprattutto è una vittoria per Della Valle, no? La grande vittoria per il momento di Della Valle, colui che aveva definito un vecchietto arzillo Cesare Geronzi, e che infatti, intervistato da Giovanni Pons su Repubblica, dice: una svolta per l'intero sistema, non c'era alcuna sfida personale, ognuno ha fatto la sua parte, c'era voglia di respirare aria fresca. Mentre sul Foglio, in prima pagina, sotto il titolo La caduta degli dèi, c'è il racconto di come cambierà ora la mappa dei poteri. È solo l'inizio, scrive il Foglio. Le dimissioni di Geronzi dal generale innescano una reazione a catena che può ridisegnare la mappa del potere finanziario. La borsa festeggia, si aggiudica il primo round Diego Della Valle, che ha scosso l'albero, consuma la propria rivincita Alberto Nagel, l'amministratore delegato di Mediobanca. Vincent Bolloré resta vicepresidente della compagnia triestina, ma nelle stanze di via Filodrammatici, oggi piazzetta Cuccia, si giocherà il match decisivo con gli azionisti francesi. Nel frattempo è prevedibile una ricaduta in RCS, la casa editrice proprietaria del Corriere della Sera, dalle cui colonne i duellanti si sono lanciate frecce avvelenate. E tra l'altro sul Corriere voglio registrare oggi Ferruccio De Bortoli, il direttore, firma un articolo, e è colui che è riuscito a sentire, non è una vera e propria intervista, ma una telefonata con Cesare Geronzi. Io lascio, i nuovi sono gioventù anziana. Così si prende questa rivincita, lui definito un vecchietto arzillo. Dice: i nuovi sono gioventù già vecchia. Il presidente uscente delle generali, racconta De Bortoli, è un uomo di grande cortesia. Al telefono a tarda sera dissimula tutta la delusione per l'andamento del consiglio che l'ha sfiduciato. Non sembra esserci traccia nel suo umore delle lunghe, drammatiche ore trascorse in quella piazza Venezia, così carica di suggezioni storiche, che nel suo disegno doveva diventare il quartier generale di una multinazionale di sistema. Trieste, sede storica delle generali, è lontana, lontanissima. Un altro mondo, forse quello che lui non ha capito, una compagnia di assicurazioni che ebbe tra i suoi dipendenti Franz Kafka, ed è radicalmente diversa da un istituto di credito per giunta romano. E scrive De Bortoli: le generali muovono una massa di investimenti rilevante, coagulano interessi e, sottolinea Geronzi, molti, troppi conflitti di interesse o interessi contrapposti. Gli scontri fanno parte della storia della più grande compagnia d'assicurazione italiana, ma aggiunge Geronzi, sempre con quella serenità che sembra non abbandonarlo mai: diciamo che non potevo accettare che scendessero a livelli così beceri. Non ho voluto scrivere una delle più brutte pagine della storia dell'establishment italiano. E poi eccola qui l'accusa finale: lui definito arzillo vecchietto dal suo rivale Diego Della Valle non si rassegna alla pensione, non parla dei suoi molti nemici ex alleati, si limita a dire con un po' di perfidia che il nuovo che avanza è formato da una gioventù anziana dalla quale non c'è da aspettarsi granché. Chi vivrà, vedrà. Così Ferruccio De Bortoli ha colloquio telefonico con Cesare Geronzi, mentre Il Sole regista che tra i vari retroscena c'è il progressivo gelo di Tremonti. A pagina 7 Isabella Bufacchi e Carlo Marroni raccontano di come negli ultimi mesi i rapporti tra il ministro del Tesoro e Geronzi siano stati segnati da una presa di distanza sempre più evidente, tanto che ieri Tremonti, che non ha fatto ulteriori commenti perché le borse erano aperte, ha detto semplicemente scherzando: perché? Cosa sta succedendo in generale? Quando gli hanno chiesto delle generali. Beh, insomma, il solito modo di Tremonti molto, molto puntuto di fare battute. Che c'è tempo di fare qualcos'altro? Di dire qualcos'altro? Beh, c'è tempo per dire che Michele Santoro ha chiesto a Libero 150.000 euro di risarcimento. Perché? Perché Libero pubblicò in prima pagina, ve lo ricordate, il cellulare di Michele Santoro. 3, 4, 8 e via, insomma, il cellulare aziendale. Ora Libero rende noto che Michele Santoro ci ha chiesto 150.000 euro perché nella citazione... si lamenta Santoro di avergli procurato 48 ore di comprensibile turbamento dello stato d'animo in quanto il suo telefono squillava ininterrottamente per ricoprirlo di ingiurie e minacce. Quindi 150.000 euro di danni, questo ha chiesto Michele Santoro. C'è spazio forse ancora un minuto, guardo Peter, per... no, mi dice di no. Che fai questi cenni? Devo chiudere. E allora chiudiamo. Ricordo che il senatore Alberto Tedesco del Partito Democratico sarà nostro ospite per l'intervista, colui per il quale pende una richiesta d'arresto al Senato, mentre parleremo della legittima difesa di questo guardia giurata che ha sparato e ucciso due rapinatori in banca, dovrà rispondere di duplice omicidio nel nostro sondaggio. Il Giornale Radio.